Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Prosegue anche questo sabato la nostra indagine tra le centinaia di migliaia di professionisti under 40 italiani espatriati in cerca di migliori occasioni professionali e, perché no, anche di vita, tutti dichiaratamente in fuga da quello che non è più o è sempre meno un paese per giovani. Oggi restate sintonizzati perché non parleremo solamente di lavoro all'estero, ma anche di come si selezionano i migliori candidati nel Regno Unito. Ho letto l'articolo sul giornale, ho preso il mio curriculum, sono andato all'entrata, ho detto posso parlare con uno dei direttori, dei managers qua. Sono andato lì, mi sono messo in piedi davanti a questo gruppo di persone che facevano i colloqui, facevano una selezione, c'erano probabilmente 20 persone per questa selezione, e gli ho detto che avrei avuto la passione di aprire il mercato italiano, di lavorare in Europa, forse nel modo in cui mi sono presentato, la passione, sono riuscito a prendere il mio primo lavoro in selezione, e da lì è iniziata la mia carriera. Luigi Puliga ha 36 anni, vive in Gran Bretagna da quando, pensate, ne aveva solo 22. È quello che oltremanica definirebbero un self-made man. Una storia molto bella ed estremamente particolare la sua, che vi racconteremo tra poco. Attraverso la sua esperienza indagheremo su come all'estero si possa diventare con maggior facilità pure imprenditori. Italiani di talento e da esportazione, insomma, con una vocazione a fare impresa. Ora spazio al nostro notiziario. Potrebbero essere le nanotecnologie il volano per far rientrare in Italia i cervelli in fuga. Il primo ad averne approfittato è Francesco Stellacci, che da quasi 10 anni lavora all'MIT di Boston, ma che torna ora in Italia per dirigere il neonato Centro Europeo di Nanomedicina di Milano. Il CEN è stato fondato da 10 centri di ricerca lombardi guidati dall'Istituto Neurologico BESTA. Presto presenteremo, in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma, un portale internet per l'imprenditoria giovanile con tutte le notizie e i servizi per aprire un'impresa. Lo ha annunciato il ministro per la gioventù Giorgia Meloni partecipando al lancio del progetto Side Leaders. Sono stati prorogati al 15 marzo i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al bando Il Talento delle Idee. L'iniziativa, promossa da Unicredit e giovani imprenditori di Confindustria, prevede la selezione delle migliori start-up innovative italiane per dare un sostegno alla nascita e alla crescita di nuove realtà imprenditoriali. Possono partecipare imprenditori di età compresa tra i 18 e i 40 anni. Tutti i dettagli sui siti internet di Unicredit Group e di Confindustria. E scade il 1 marzo il bando 2010 per il Master dei Talenti Neolaureati, che offre ai giovani piemontesi e valdostani, freschi di laurea, la possibilità di effettuare un periodo di tirocinio retribuito all'estero. Gli stage hanno una durata variabile tra i 6 e i 12 mesi, si svolgono in tutto il mondo. Tutte le informazioni al sito www.fondazionecrt.it. Con marzo si rinnova infine il notiziario di Giovani Talenti. In ciascuna puntata vi forniremo non solo notizie aggiornate sull'universo dei talenti in ingresso e in uscita dall'Italia, ma vi segnaleremo pure alcune importanti offerte di lavoro presenti sul mercato internazionale, rivolte proprio ai giovani professionisti. Per qualsiasi segnalazione potete scriverci giovanitalenti@radio24.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta a Leeds, nel nord dell'Inghilterra, per parlarvi della vicenda di un giovane sardo che ha saputo trasformare una difficoltà, quella di trovare lavoro in Italia, in una opportunità. Nome: Luigi. Cognome: Puliga. Età: 36. Città di origine: San Vero Milis, in provincia di Ristano. Studi: diploma come analista di laboratorio chimico e biologico e un anno di biologia all'Università di Sassari. Anno in cui hai lasciato l'Italia: il 1996. Per andare dove? Londra inizialmente. Perché? Imparare l'inglese e trovare un lavoro. Quale lavoro svolgi attualmente? Selezionatore di personale nella mia compagnia, che si chiama Langley Scott. Dove? A Leeds, nel nord dell'Inghilterra. Tornerai? Domanda da 1 miliardo di euro. Ho provato, ma non è così facile. La burocrazia italiana non mi aiuta più di tanto. Luigi Puliga, come cantavano qualche anno fa i Planet Funk, ti senti anche tu un po' stuck in the UK, cioè inchiodato al Regno Unito? Inchiodato fino a un certo punto, la scelta è sempre la mia, però dobbiamo anche, è una più una scelta che essere inchiodato a questo posto. Iniziamo a parlare un po' del percorso che ti ha portato oltre Manica. Come ci arrivi? Ma soprattutto partiamo dalla tua esperienza in Italia. Quali studi hai fatto? Ma io ho fatto solo un anno di università dopo aver preso il diploma come analista chimico e biologico a una scuola in Oristano. Ho fatto solo un anno di università perché lo Stato mi ha chiamato a fare un anno in militare, che sfortunatamente mi ha un po' tagliato le gambe per passione, per gli studi e altre cose. Ho avuto la possibilità, tramite un amico, di venire in Inghilterra a imparare l'inglese, che secondo me era uno di quelle dei vantaggi che una persona italiana può avere. E quindi diciamo che hai questa opportunità, interrompi la tua carriera all'università, perché in quel momento ti trovavi all'università, ricordiamo, anche a studiare cosa? Biologia marina. E a quel punto però, i casi della vita, no? Arrivi nel Regno Unito e ora ci racconterai anche cosa fai e poi cambi completamente carriera. Ma partiamo proprio dall'impatto che hai quando arrivi giovanissimo, avevi poco più di 20 anni. Quanti anni avevi, Luigi? Avevo 23 anni. Avevi 23 anni, eri molto giovane. Quale fu l'impatto con il Regno Unito? Vengo da un paesino di 1700 abitanti. La prima città che ho visto era Londra, 8 milioni di abitanti, cosmopolita, diversa. Un posto che fa paura, specialmente con l'età e senza esperienza, però allo stesso tempo un posto pieno di opportunità, dove subito ho capito che puoi essere bianco, nero, inglese, italiano, da qualsiasi parte del mondo ci sono opportunità. La fortuna mia è stata di conoscere delle persone che mi hanno fatto capire subito che anche se il mio inglese non era grandioso, chissà cosa, se avevi talento, se avevi voglia di fare, se volevi lavorare duro, e noi sardi siamo abbastanza conosciuti per quello, le opportunità erano lì. Ho lavorato prima, come tanti italiani, in un ristorante. E succede a un certo punto un fatto che in qualche modo ti cambia la vita. E tu l'hai raccontato in una email a giovanitalenti@radio24.it quando tu dici: a Londra ho iniziato la mia carriera di selezione. Come ho fatto? Ho letto un articolo sul giornale, ho preso il mio curriculum vitae, sono andato negli uffici della compagnia Computer Future e ho fatto una presentazione commerciale con un inglese basilare ma con molta passione e voglia di fare. E cosa succede a questo punto? È molto semplice. Conoscevo la compagnia Computer Future tramite una persona che lavorava lì. La mia prima domanda era: cosa fai per vivere? Lavoro in selezione, recruitment, come lo chiamano qua. E io ho detto subito: che cos'è il recruitment? Beh, io parlo con tanta gente, li trovo un lavoro, prendo una percentuale dello stipendio che la persona viene pagata. È un lavoro che è molto duro, ma si possono fare tanti soldi. E io ho detto: ma il lavoro perfetto per me, perché sono sempre stata una persona molto ambiziosa. Ho letto l'articolo sul giornale, ho preso il mio curriculum, sono andato all'entrata, ho detto: posso parlare con uno dei direttori, dei manager qua. Sono andato lì, mi sono messo in piedi davanti a questo gruppo di persone che facevano i colloqui, facevano una selezione, c'erano probabilmente 20 persone per questa selezione, e gli ho detto che avrei avuto la passione di aprire il mercato italiano, di lavorare in Europa. E a loro è piaciuto questo, e al momento tutti volevano anche entrare nel mercato europeo facendo la selezione, perché la selezione in Europa era una cosa non molto conosciuta. Non so, forse nel modo in cui mi sono presentato, la passione, sono riuscito a prendere il mio primo lavoro in selezione, e da lì è iniziata la mia carriera. Ecco, ce la riassumi un po' brevemente, ecco, senza entrare troppo nel dettaglio, ma anche un po' i passaggi, la trafila lavorativa che hai avuto, perché tu hai cambiato diverse aziende di recruitment, di selezione del personale. Ho cambiato diverse aziende perché qui in Inghilterra il lavoro non è a vita. Mia madre è stata una postina per 25 anni, mio nonno lo stesso. Qui vai, ti muovi dove conviene di più, dove il lavoro ti porta, se la compagnia ti vuole dare quella carriera. Io ho iniziato, ho fatto 12 mesi con la Computer Future, dove ho lavorato con delle persone fantastiche, dove ho imparato veramente a fare la selezione nel modo anglosassone, perché il recruitment, la selezione è iniziata in America e in Inghilterra. Quindi ho imparato per 12 mesi come fare il lavoro. Lavoravo quasi 12 ore al giorno, se non di più. Dopo 12 mesi ho lasciato la compagnia perché il cacciatore di teste mi ha chiamato e mi ha detto: c'è una compagnia che sta cercando una persona che parla italiano e inglese per iniziare il mercato, per lavorare sul mercato italiano. Per me quella era l'occasione perfetta, perché il mio inglese era così, cioè era buono ma non perfetto, però adesso che ho imparato il lavoro e parlare l'italiano, per me era stata la chiave del mio successo. Commercialmente ho iniziato a lavorare con una compagnia che si chiamava Bluetel, che è specializzata in telecomunicazione, e il mio lavoro era di aprire, proprio di entrare nel mercato italiano lavorando con le varie compagnie come la Nokia, la Ericsson, la Blue, la vecchia Omnitel, la Telecom e via dicendo. È andata benissimo, nel senso che la parte difficile era convincere i dirigenti italiani a pagare 30% dello stipendio della persona che mettevo nella loro compagnia. Quindi diciamo, voi facevate la selezione e poi era difficile farsi pagare. Un po' i paradossi dell'Italia, Luigi. Purtroppo ci siamo abituati. Arrivo 60 un po'... giorni, 120 giorni, se non di più anche. Arrivo un po' alla fine anche del tuo percorso, perché tu comunque cambi varie aziende di selezione e arrivi ad aprire la tua, la Langley Scott Search. Di cosa ti occupi? Anche perché tu fai una selezione molto particolare e hai dei clienti molto particolari. Ho fatto diversi tipi di selezione, ma ultimamente quando ho aperto Langley Scott, ho capito che lavorare sulle posizioni dei commerciali, io rappresento commerciali, quindi persone che vengono da una posizione delle persone che sono sul commerciale, che si macchina, che va a vendere porta a porta, fino al dirigente o che è responsabile per i grossi clienti. Sì, uno dei miei clienti, ci siamo specializzati nell'area sportiva, specialmente nella Premier League, il Manchester United, il Liverpool e compagnia del genere. Tu hai tra i tuoi clienti le migliori squadre d'Inghilterra. Assolutamente, perché qui so che la Juventus lo fa in Italia moltissimo, ma è tutto basato sulla sponsorizzazione naturalmente, ma anche vendere i box, li chiamano qua, dove la gente va a guardare la partita, ma in un modo un po' più, diciamo, la VIP, dove devono vendere il box per guardare le partite della Champions League. Luigi, e della Premier League. Il tempo corre, però ho delle domande anche interessanti a farti. La prima è un po' la differenza che tu noti in Italia e nel Regno Unito a livello di selezione di recruitment. Si dice sempre che il Regno Unito è il regno anche della meritocrazia, in Italia invece è luogo comune, ma fino a un certo punto, purtroppo spesso è anche realtà, si dice che si avanza solo grazie alle conoscenze. Allora, in base alla tua esperienza, quanto c'è di vero? Sfortunatamente devo darti ragione, è così. Qui in Inghilterra, e io sono probabilmente uno degli esempi, ho avanzato solo perché ho fatto bene, ho prodotto un diverso buon fatturato per le compagnie con cui ho lavorato, quindi sono andato avanti fino a diventare un dirigente. In Italia per fare il dirigente devi prima avere una laurea, seconda lavorare per una compagnia per almeno 20 anni, almeno, sto esagerando forse, però specialmente per chi conosci. Sono tornato in Italia diverse volte dove, perché la mia business card, la mia cartina dice direttore, mi chiamavano tutti dottore, dove io mi sento non è un nome che mi merito. È un modo di dire che sei importante, diciamolo, in Italia. Che... Luigi, una cosa importante però, tu hai avuto il coraggio di rischiare di metterti in proprio, di aprire da italiano un'agenzia di recruitment, un'azienda di recruitment, di selezione personale oltre Manica. Vedi la stessa mentalità imprenditoriale nei tuoi colleghi italiani? Cioè, il giovane italiano sa mettersi in proprio, sa rischiare, e quando lo fa c'è un paese pronto a dargli credito? Qui in Inghilterra è veramente facile aprire la propria compagnia. Il governo ti aiuta, ti spinge verso quella direzione. In Italia è troppo difficile. Gli italiani vanno dietro il lavoro sicuro. Tutti vogliamo lavorare per qualcuno, lo stipendio ogni mese, perché non ci sono altre possibilità. Qui in Inghilterra, per creare lavoro devi creare compagnie. In Italia non abbiamo questa mentalità. I giovani italiani non vengono aiutate, almeno non vengono date almeno l'idea, è una questione psicologica. Se pensi che sia una cosa facile aprire la propria compagnia, lo fai, perché ci sono troppi bastoni tra le ruote per le persone italiane, non lo fanno. Io ho provato a aprire una compagnia in Italia e ci volevano 3 mesi per una partita IVA, ci volevano per registrare la compagnia in Italia dovevo avere un conto in banca italiana. Siccome non ho mai lavorato in Italia, perché sono venuto qui da giovane, non potevo aprire un conto in banca, potevo aprirlo solo nel nome di mia madre. Luigi, è più facile. Ti chiedo in un flash, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti? Come? Apriamo gli occhi. L'Italia oggi si vede come un paese che è un po' poltrona. Il futuro è lavorare di più, lavorare più ore, cercare il successo in qualsiasi cosa facciamo. Questa è una mentalità anglosassone. In Italia lavoriamo per lo stipendio e poi ci lamentiamo che non c'è lavoro, però non lo creiamo allo stesso tempo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta settimanalmente le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della storia di Luigi Puliga, 36enne di origine sarda che si è affermato al termine di una lunga trafila professionale nel durissimo settore delle risorse umane nel Regno Unito. Una serie di passaggi in alcune brillanti realtà aziendali di recruitment oltremanica lo hanno portato a rischiare in proprio aprendo una sua azienda di selezione del personale. Giampaolo Catania, fondatore di Chance, ha fatto un percorso analogo, pur tra mille difficoltà, in Italia, resistendo anche a un bel po' di sirene che lo chiamavano dall'estero, vero Giampaolo? Verissimo, verissimo. Raccontaci. Bene, io sono nato in Italia e ho deciso di restare nel mio paese fondamentalmente, anche se mi sono messo a lavorare in un mondo, come appunto Luigi prima diceva, molto particolare, quello appunto della selezione del recruitment del personale. Ho avuto occasione di spostarmi, ma ho deciso di rimanere qui perché riconosco che oggi i confini nazionali non sono più come una volta. L'Italia comunque ha fatto dei grandi passi avanti, non lo possiamo negare, negli ultimi anni, ma devo dire anche negli ultimi mesi, dei passi avanti ci sono. Quello che però bisogna cambiare è la mentalità, e cioè siamo in un mondo globalizzato, ma obiettivamente, come Luigi prima accennava, l'Italia continua a essere un paese troppo paese, cioè troppo legato alla propria diversa cultura, diversa lingua, diversa tradizione, e questo poi si vede anche nel mondo del lavoro. Il mio grande obiettivo quindi attraverso i miei vari progetti è quello di rimettere a posto sicuramente il mondo del lavoro, ma di compiere una vera e propria rivoluzione in Italia che ha l'obiettivo di riportare in auge quello che poi è la qualità del nostro paese, che è indubbia. Luigi, si riesce a fare un po' questo progetto che ha in mente Giampaolo? Giampaolo vuole proprio fare un new deal tra aziende, istituzioni, università, giovani, per cercare di portare i talenti sempre più in circolo, superare quella barriera naturale di conoscenze, raccomandazioni, telefonate che finora ha purtroppo determinato molto il mercato lavorativo italiano. Io ammiro Giampaolo e quello che sta facendo, non so se sono in una posizione di dare suggerimenti, però direi a Giampaolo, quello che fai è ottimo se cerchi di cambiare la mentalità, penso però che dovresti andare un po' più alla sorgente, alle istituzioni, la gente deve capire, la gente deve imparare oltretutto non solo a trovare lavoro, ma anche a fare l'intervista, il colloquio lavorativo in un modo più aperto, con una mentalità più aperta, nel senso che la gente non deve solo guardare che università hai fatto, ma il skill set basilare, che adesso sono le conoscenze basilari che fanno fare quel lavoro meglio. Se mettiamo le persone giuste nel lavoro giusto, c'è una progressione nella compagnia. La compagnia recluta più personale. Assolutamente sì. Devo dirti, Luigi, che noi abbiamo un sito che si chiama ciumbia.com, che è un sito che ha all'interno delle caratteristiche molto molto innovative, proprio per andare nella direzione che tu stai indicando. Ad esempio, sul nostro sito la persona non è più valutata sull'età, oppure sulla laurea, oppure sugli anni passati in una data azienda, ma sulle competenze. E cioè, posso dire, per la prima volta in Italia si verrà chiamati per lavorare non sulla base di quanti anni ho di, tra virgolette, esperienza, ma di quello che so fare. E questa è una vera e propria grande rivoluzione. Dopodiché, come tu giustamente dici, questo percorso non può non prendere anche sotto il suo alveo anche le istituzioni e poi anche le grandi università, che purtroppo, devo dire, ancora oggi rimangono troppo arroccate. È un momento anche storico, la crisi internazionale lo impone, in cui è necessario rompere i vecchi schemi e agire tutti insieme. E noi siamo di Ciumbia e di Chance, siamo un po' i promotori, oltre che appunto di progetti concreti come ciumbia.com, anche di questi nuovi accordi, come prima appunto si diceva, tra tutti i diversi soggetti che purtroppo in Italia ancora lavorano da soli. Il problema principale dell'Italia è proprio questo. C'è tanto fermento, l'Italia è il paese del fermento, delle piccole e medie imprese, siano tantissimi gli imprenditori e le partite IVA, ma ognuno purtroppo lavora nel suo piccolo, guarda il suo orto, il suo piccolo appezzamento di terra. Oggi dobbiamo metterci insieme e noi siamo giovani trentenni, in Italia ancora chiamati bamboccioni, ma che in realtà non siamo bamboccioni, ma abbiamo voglia di rimettere a posto il nostro paese. Giampaolo, in bocca al lupo. Invece a Luigi, in un flash, perché siamo in chiusura, però la domanda di rito: quale consiglio, Luigi, daresti a un tuo giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, anche a un espatrio all'estero? Secondo me non è una cosa brutta andare all'estero e capire, e importare in Italia nuove conoscenze, nuovi modi di vita, perché l'Italia, come diceva Giampaolo, ha bisogno di modernizzazione nel modo in cui si vede il lavoro. Quindi importare, non stiamo rubando niente a nessuno, veniamo all'estero, impariamo un nuovo lavoro, lo importiamo in Italia. Secondo me aiuterà soltanto la nazione, il mondo lavorativo italiano a progredire e modernizzarsi. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire la nuova emigrazione. Oggi inauguriamo la nostra prima finestra mensile con l'associazione italiansonline.net, la più grande community di italiani all'estero. Cominciamo dalla sezione di Amsterdam, che conta ben 3.300 iscritti. Ascoltate con attenzione quello che Lidia Bernabei, responsabile di sezione e residente nei Paesi Bassi da 15 anni, dirà tra poco sulla crescente ondata di espatrio tra gli under 30 italiani. Ma iniziamo da un quadro statistico degli italiani in Olanda. Sono per un 56% tra i 26 e i 35 anni, un 25% tra i 36 e i 45 e un 12% tra i 16 e i 25, quindi una fascia abbastanza larga, abbastanza giovane. Per la maggior parte abitano ad Amsterdam e dintorni, e abbiamo sì degli studenti, ma la maggior parte sono già inseriti nel mondo del lavoro, con circa un 30% di figure professionali a livello manageriale, e poi c'è appunto una fascia molto interessante di persone che ci segue dall'Italia, e quella fascia è sempre più giovane, quindi gli universitari che aspirano a trasferirsi e che già si informano attraverso i nostri canali. Che cosa porta però tanti giovani italiani ad andare in Olanda, un paese che linguisticamente non è semplicissimo? L'olandese non è forse la lingua più facile del mondo, ma tutti gli olandesi di qualsiasi livello sociale parlano perfettamente inglese, e a livello sia lavorativo che universitario l'inglese è la lingua che viene usata nella maggior parte dei casi, quindi sì, l'inglese è una condizione necessaria per poter venire in Olanda. Magari è un inglese anche più facile dell'inglese che viene parlato in Inghilterra, perché comunque sia un inglese un pochino più tranquillo per l'orecchio italiano. Però cosa li attrae, soprattutto a livello lavorativo? Un ambiente forse più trasparente, selezioni migliori? Sì, selezioni migliori, una situazione meno gerarchica rispetto all'Italia, quindi molta più meritocrazia, quindi la possibilità di fare carriera e di essere pagata adeguatamente se dimostri di avere le qualità. E in che settori trovano normalmente lavoro? Nel settore medico ci sono moltissimi professionisti, per esempio il più giovane cardiologo d'Olanda è un italiano, un'italiana peraltro. Nel settore finanziario anche, spaziano veramente un po' in tutti i settori, nell'export, non solo con l'Italia ma con tutti i paesi del sud Europa, dove la capacità degli italiani di capire rispetto agli olandesi più facilmente alcuni input commerciali li rende molto interessanti sul mercato. Ed è un fenomeno in crescita secondo te, insomma, dal tuo osservatorio? Sì, sicuramente dei giovani tra appunto sotto i 25 anni, 26 anni, moltissimi nell'ultimo anno si informano attraverso il nostro forum, ci scrivono email per avere più informazioni e per trasferirsi in Olanda. Veniamo a voi invece al tipo anche di attività che organizzate come Italians Online Amsterdam. Guarda, gli IOT sono molto diversi, la nostra popolazione è molto diversa, quindi organizziamo anche eventi diversi, quindi dall'apero IOL, che è un aperitivo dove si possono condividere esperienze, contatti, informazioni, networking, professional youth, quindi full immersion nel mondo del lavoro, organizzate dagli Italians Online olandesi nel loro contesto lavorativo. Per saperne di più, www.italiansonline.net, sezione Amsterdam. E prima di chiudere questa puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Intern Active, una rubrica di confronto online per dare voce a chi di voi è espatriato oppure intende intervenire nelle discussioni che lanceremo settimanalmente. Oggi vi leggiamo due lettere giunte negli ultimi giorni all'indirizzo email giovanitalenti@radio24.it. Antonella dal Regno Unito. Vorrei sollevare l'attenzione su uno dei gravi problemi esistenti in Italia che mi hanno costretta a cercare lavoro all'estero: i requisiti di età che vengono imposti nel nostro paese durante i processi di selezione. Sono un ingegnere civile laureatami nel 2006 con il massimo dei voti, scrive Antonella, ma per il mercato del lavoro italiano ho un grave difetto, ho più di 30 anni. Ho sempre accettato con remissione questa regola finché sono stata in Italia, finché non ho deciso di cercare lavoro nel Regno Unito, terra di grande civiltà. Ebbene, con mia grande meraviglia, gli agenti di recruitment mi obbligarono a rimuovere la data di nascita dal curriculum vitae. Italo dagli Stati Uniti. Io posso solo dire grazie italiani, quelli ai posti di potere intendo, insomma quelli incapaci, grazie, perché con la vostra capacità di ignorare l'innovazione e il merito mi avete dato la forza di ritrovarmi a vivere nel posto dei miei sogni, scrive Italo. Spero di riuscire a competere qui e tornare in Italia solo in vacanza, trattando gli italiani delle corporazioni allo stesso modo in cui hanno trattato me e tanti ingegneri e ricercatori. Questa settimana vi lanciamo una nuova provocazione e prendiamo spunto da uno dei temi emersi nel corso di questa puntata. Quanto è facile in Italia divenire imprenditore, soprattutto se si è giovani? E quanto voi giovani sentite di avere una mentalità imprenditoriale? Avete voglia di rischiare in proprio? Per commentare il tema della settimana potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Esiste anche un gruppo sul portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti, dove rilanceremo settimanalmente la discussione. E finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto dunque i vostri contributi online all'email giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 15, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.